Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 197 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di cervello, neuroni, ma soprattutto di modelli stocastici. Cari ascoltatori, il neurone, meglio ancora i neuroni, sono le cellule fondamentali del nostro cervello attorno alle quali gira tutto il funzionamento dell'organo forse più importante del nostro corpo. Dai neuroni partono quegli stimoli che creano pensiero ed azioni e da alcune stime, e queste sono solamente stime, pare che ci siano circa 100 miliardi di neuroni in ogni cervello. Capite che un numero così alto di neuroni richiede una alta precisione per poter modellizzare, per poter creare un modello che descriva il loro funzionamento, meglio ancora il loro movimento. Beh, un modello per definizione è un modello matematico, un modello stocastico, ed è di un modello, meglio ancora della semplificazione dei modelli attuali, che parleremo questa settimana. Ne parleremo col professor Michele Giuliano, professore presso il gruppo di ricerca di neurobiologia teorica e neuroingegneria presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Anversa in Belgio, e terzo autore di un paper pubblicato qualche giorno fa su PLOS Computational Biology intitolato Accurate and Fast Simulation of Channel Noise in Conductance Based Model Neurons by Diffusion Approximation. Buongiorno Michele. Buongiorno, buongiorno a tutti. Michele, ti lascio la parola per le 100 parole iniziali con cui introdurremo questo paper e ti chiedo a questo punto di sintetizzare il contenuto che poi andremo a sviluppare nel corso della trasmissione. Prego. Benissimo. Il lavoro in qualche senso ha lo scopo finale di permettere a un calcolatore elettronico di simulare, di emulare, di imitare il comportamento elettrico dei neuroni, che sono le cellule fondamentali che costituiscono il nostro cervello. Ci sono due strade, una di queste ha una complessità per i dettagli che include insostenibile anche dal più veloce supercalcolatore possibile. Noi abbiamo trovato un metodo egualmente accurato e preciso, seppure approssimato, che garantisce la simulazione realistica delle proprietà elettriche di un neurone, focalizzando in particolare sulle proprietà stocastiche, ovvero le proprietà di imprevedibilità parziale che tutti i sistemi fisici in natura hanno. E allora, quindi, come ci stai dicendo, questo è un modello stocastico per descrivere il funzionamento dei neuroni. Questo modello quindi è accurato tanto quanto i modelli precedenti. Allora, ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di capire come sono strutturati effettivamente questi modelli dal punto di vista matematico, mentre nella seconda parte della trasmissione cercheremo di capire i risultati a cui siete arrivati e come avete realizzato questo studio. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Well, the bottle keeps me from the therapist's couch. You don't really want to know what that's all about. Friends all hate to see me alone, but I like myself and I tell myself so. I soar on the wind when I play my guitar, sing all the songs when I drive in the car. I live in the moment as much as I can, simple as it gets for a complicated man. sin. There are those who think that my party never ends. There are those who are sure that I'm chasing youth. They don't realize I've caught the truth. Love is the only gift we can give. We all need to learn to live and to live. I know where I'm at and I know who I am. Simple as it gets for a complicated man. Questions I can't answer. File them under, I don't know. Do I need someone to save me? I've got cards I don't want to show. Complicated Man di Legio Emerson. Questo è il primo pezzo musicale che abbiamo scelto di trasmettere all'interno della 197esima puntata di Cacciafotone, all'interno della quale ci stiamo occupando di neuroni, o meglio ancora di modelli per descrivere il funzionamento di neuroni, e ce ne stiamo occupando col professor Michele Giuliano, professore presso il gruppo di ricerca di neurobiologia teorica e neuroingegneria al Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Anversa in Belgio, ma soprattutto terzo autore di un paper pubblicato qualche giorno fa su PLOS Computational Biology, in cui si cerca di capire come descrivere attraverso modelli stocastici il funzionamento dei neuroni. Nell'introduzione, Michele, abbiamo provato a descrivere il contenuto di questo paper, ma poi andremo meglio a capire come avete realizzato questa ricerca, ma all'inizio vorrei sentire da te da dove nasce esattamente la necessità, l'esigenza di modellizzare il funzionamento del cervello e quindi meglio ancora il funzionamento dei neuroni, le cellule fondamentali attorno alle quali gira praticamente tutto il nostro corpo. È lo stesso tipo di ragione che ispira la fisica, in questo caso la biofisica, a provare a scrivere delle equazioni per semplificare la realtà e soprattutto per poter prevedere e interpretare i fenomeni che possono essere osservati. Nel caso della neurobiologia, nel caso dei fenomeni cognitivi più complicati, si vuole comprendere quantitativamente il cervello per poterlo riparare, per poterlo comprendere, riprodurre al limite in silicio, per esempio, e per questo serve lo stesso linguaggio della fisica, della chimica, della matematica. Michele, nel paper vi occupate della descrizione, nella prima parte del paper, soprattutto del modello Markov e del metodo Monte Carlo. Mi vorresti spiegare esattamente che cosa sono questo modello e questo metodo, e soprattutto qual è la differenza fra i due? Il Markov, o i modelli markoviani, è una specie di descrizione fisica molto semplificata di alcuni oggetti che sono fondamentali per il funzionamento dei neuroni. Uno può immaginare un neurone come un palloncino, e sulla superficie di questo palloncino, che rappresenterebbe la membrana cellulare, dovrebbe poter identificare dei minuscoli pori, dei minuscoli buchi, e questi buchi possono essere o chiusi o aperti, e quando sono aperti, nel caso del palloncino, lascerebbero uscire un po' di aria dall'interno. Ebbene, l'apertura o la chiusura di questi pori, o cosiddetti canali ionici di membrana, è ben descritta fin dagli anni 50 del secolo scorso da un modello markoviano, il che significa che è un modello fisico in cui la transizione verso un nuovo stato, da aperto a chiuso, da chiuso a aperto, nel caso più semplice, dipende solo dallo stato attuale e non dalla storia precedente con cui si è arrivati a questo stato. Per quanto invece concerne il metodo Monte Carlo, questo è fondamentale per poter simulare con un calcolatore elettronico attuale, moderno, l'evoluzione nel tempo di questi sistemi. Se io voglio fare una simulazione di uno di questi pori e studiarne l'apertura e la chiusura su un calcolatore, anche su un laptop, ho bisogno di un metodo matematico che mi garantisca che le proprietà di queste transizioni che andrò a simulare, diciamo che il mio computer imiterà, avranno le caratteristiche desiderate, le caratteristiche simili a quelle in natura. Senti, storicamente, quando nasce lo sviluppo, o meglio ancora l'utilizzo dei modelli stocastici per descrivere questo tipo di comportamenti, questo tipo di fenomeni? Fondamentalmente dall'inizio del Novecento, del secolo scorso, ci sono due filoni, quello più dei biofisici o dei biologi che volevano mantenere un tipo di accuratezza nel linguaggio che avesse una validità biologica, e un altro filone di un gruppo di fisici, fondamentalmente fisici, ingegneri, matematici, che cercavano di rendere molto più astratta la descrizione di un sistema nervoso, perché non è chiaro, i principi con cui un cervello funziona sono molto diversi da quelli con cui un computer funziona, un processore Pentium funziona, e questo fin dal Novecento è stato oggetto di intenso studio, non soltanto da biologi e da elettrofisiologi, ma anche da matematici, ingegneri e soprattutto fisici e biofisici, i quali hanno preso equazioni come quelle che descrivono l'andamento di un pendolo e hanno pensato di studiare attraverso queste equazioni che cosa un gruppo di neuroni, non soltanto un neurone soltanto, potessero collaborativamente fare e collettivamente produrre, che è in effetti l'attuale visione del perché il cervello permette l'emergenza di tutta una serie di fenomeni cognitivi complessi, memoria, linguaggio, comportamento. Senti Michele, lo so che non è facile da fare, però ti chiedo di farlo soprattutto per cercare di capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Come si fa a modellizzare il comportamento di miliardi e miliardi di neuroni in semplici rapporti di 1 e 0? Cioè, come si fa a tradurre così tanti elementi in due soli numeri? Il metodo è molto simile a quello del il suo linguaggio, a quello della teoria dei circuiti elettrici. Alla fine si individuano delle analogie fra elettroni, i portatori di carica nei metalli, e ioni, che sono portatori di carica nelle soluzioni saline, nelle soluzioni fisiologiche, nelle cellule, e si fa un parallelo fra, per esempio, la membrana del neurone è un condensatore, che è un componente elettronico tradizionale, classico, fra uno di questi pori che menzionavo prima e una resistenza, un resistore, un filo attraverso, messo in parallelo a questo condensatore che ho menzionato prima. Questo semplice linguaggio, alla fine, in effetti produce delle grandezze, delle equazioni che sono analogiche, ovvero non variano fra 0 e 1. Quando però questo deve essere simulato in un calcolatore, questo deve essere in qualche modo soggetto a una semplificazione, che è la stessa semplificazione che qualunque modello matematico che viene simulato al calcolatore è soggetto, una discretizzazione delle equazioni, una semplificazione dei metodi matematici, che ovviamente restano astratti e restano ovviamente risolvibili soltanto con carta e penna, quando questo può essere fatto. Attraverso un computer questi vanno discretizzati, vanno semplificati in un modo opportuno. Quindi stiamo modellizzando i neuroni con il loro comportamento, come se ci fosse un'azione spegnimento della loro azione, on off, esattamente come quando accendiamo o spegniamo il circuito. Precisamente, ci sono dei ricercatori, per esempio del Politecnico Federale di Zurigo, che sentono vivo e molto intenso il dover implementare con un circuito elettronico analogico e non come una simulazione, come un programma, come un algoritmo su un calcolatore, un cervello oppure un microcircuito del nostro cervello, perché vedono solo in quella modalità il modo per imitare la natura e simularla, imitarla in tempo reale. Questo anche con i moderni calcolatori, con un programma che viene scritto per risolvere delle equazioni, non è consentito, non è ancora possibile, a meno di ridurre drammaticamente la complessità delle descrizioni. Senti Michele, ti faccio l'ultima domanda prima di entrare ad ascoltarci il secondo pezzo musicale e poi tornare di nome in studio. Questo paper ovviamente non è l'unico sull'argomento, sul cercare di creare dei modelli, delle strutture che ci possano rendere più facile la vita per capire il funzionamento dei neuroni. Ecco, questo paper, questo lavoro, esattamente che cosa aggiunge alla letteratura precedente che fa riferimento a questo tipo di effetti, a questo tipo di cose? il nostro paper, il nostro lavoro è solamente un piccolo incremento rispetto a quello che è lo stato dell'arte attuale, e si ispira fondamentalmente a due filoni. Uno in qualche modo che è culminato con il premio Nobel dovuto a degli articoli pubblicati negli anni 50 da parte di due elettrofisiologi inglesi, Hodgkin e Huxley. Loro avevano descritto in modo deterministico, con delle equazioni matematiche deterministiche, il comportamento di eccitabilità di un singolo neurone, quindi il fatto che un neurone potesse emettere un impulso nervoso, e fu un contributo alla letteratura enorme. In effetti loro sono veramente i giganti sulle quali spalle tutta una serie di altri lavori è stata portata avanti negli ultimi 50 anni. L'altro contesto è più recente, ha a che fare con un altro premio Nobel, ad altri due fisiologi tedeschi, Neher e Sackmann, che sperimentalmente hanno in parte verificato delle previsioni dei precedenti inglesi. E questi tedeschi invece hanno osservato per la prima volta l'apertura e la chiusura di questi pori di cui menzionavo prima, di questi canali di membrana, canali ionici di membrana. Negli anni 70 e negli anni 80 i ricercatori in varie parti del mondo, includendo l'Italia, con dei contributi molto importanti da parte per esempio di ricercatori, dei fisici come Franco Conti ed Enzo Vanche, hanno usato il linguaggio della fisica e della teoria delle probabilità per descrivere matematicamente l'apertura e la chiusura di questi canali, perché a loro faceva comodo, avendo accesso all'esperimento, volevano interpretare quello che loro vedevano, e per farlo, come sempre avviene nelle scienze esatte, ci si appoggia a dei modelli, che siano matematici, concettuali o cartoni, in qualche modo, sono fondamentali. Noi abbiamo reso possibile utilizzare questo secondo linguaggio, più probabilistico, più esatto, abbiamo reso possibile utilizzarlo per effettuare delle simulazioni a larga scala, enormi, di milioni di neuroni simultaneamente, che se uno utilizzasse tutte le equazioni, tutta la complessità di questa descrizione non deterministica, stocastica, probabilistica, come ho detto prima, sarebbe impossibile concludere una simulazione di pochi millisecondi in un tempo ragionevole. Musica e poi di nuovo in studio. Ragazzi, se la realtà fosse così. Dip me in the water, bless me with your oil. Dip me in the water, wash away the soil. From my soul, from my soul, from my soul, from my soul. My soul, dip me in the water. From my soul, I look into the sunrise of another day. I gaze upon the wonders that His hand has made. Well, I'm just a sinner, but He showed me the way. I get down on my knees and I begin. Dip me in the water, bless me with your oil. Dip me in the water, wash away the soil. From my soul, from my soul, from my soul, from my soul, from my soul. Ancora una volta in studio, cari ascoltatori, per parlare di neuroni e di modelli stocastici, insieme al professor Michele Giuliano, professore presso il gruppo di ricerca di neurobiologia teorica e neuroingegneria al Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Anversa in Belgio. Ecco, con lui stiamo parlando di un paper pubblicato qualche giorno fa, in realtà un mesetto fa, su PLOS Computational Biology, e all'interno di questo paper si ricerca di capire come si può descrivere il funzionamento dei neuroni, il movimento dei neuroni, insomma il funzionamento del cervello, per farla breve, in termini matematici. A questo punto, Michele, lascio a te la parola. Quanti anni esattamente ci sono voluti per realizzare questa ricerca, visto che è un lavoro di gruppo, esattamente come tutti gli altri lavori, tutte le altre ricerche realizzate in ambito scientifico? Assolutamente, diciamo, questo è ovviamente un lavoro di circa 2 anni, ed è stato fondamentale l'incontro con la persona che poi ha realizzato, che ha contribuito intellettualmente più di tutti a questo lavoro, il dottor Daniele Linaro, che ha appena ottenuto il suo dottorato di ricerca all'Università degli Studi di Genova, e insieme a me, insieme al professor Marco Storace, a capo del gruppo di circuiti e sistemi non lineari del Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica di Genova, abbiamo iniziato a ragionare su un contributo precedente proposto da un fisico, un certo Fox, americano, il quale aveva proposto, con enorme successo in termini di utilizzo di altre persone che avevano utilizzato il suo lavoro, aveva proposto un metodo veloce per simulare al calcolatore il comportamento stocastico dei neuroni. E questi 2 anni sono stati passati in gran parte con un forte mal di testa, più che altro da parte mia, perché sembrava che questo contributo iniziale, pubblicato da una rivista molto importante, Biophysical Journal, non funzionasse, fosse fallato in qualche senso. E ovviamente no, diciamo, il trovare le ragioni per cui le discrepanze potessero essere corrette o fossero effettivamente le discrepanze ha portato quasi 2 anni di lavoro da questo team di ricerca che ho avuto la fortuna di supervisionare, di guidare e di farne parte attivamente. Michele, se dovessi riassumere in termini molto semplici e molto stringati il goal fondamentale di questa ricerca, quale individueresti come il più importante? È quello di poter utilizzare un altro tipo di equazione, un'equazione che si chiama l'equazione della diffusione, però non ha a che fare con la diffusione del calore o la diffusione di una macchia di una goccia di inchiostro in un bicchiere d'acqua, un concetto più astratto, un'equazione però molto semplice, una singola equazione, al posto di migliaia di equazioni associate ciascuna a un canale ionico. Questo sembrerebbe banale, ed è relativamente banale quando non vengono considerati i comportamenti random, stocastici, di questi canali. Quindi questo passare da un coro di voci a una singola melodia, che in qualche modo trascuri le caratteristiche, le stonature di alcuni membri di questo coro, è possibile quando, appunto, di nuovo, a uno non interessino le stonature dei singoli componenti del coro. Il nostro contributo è stato volto invece proprio a coprire, a catturare, in modo semplificato, queste stonature dei singoli componenti, quello che in altri termini viene detto rumore di canale, le conseguenze dell'apertura e chiusura stocastica di una popolazione molto elevata di questi pori, che macroscopicamente risulta in un rumore. Senti, è un lavoro su analisi fatta in vivo oppure è un lavoro teorico, anche se stiamo parlando fondamentalmente di medicina? Allora, questo è un lavoro sostanzialmente soltanto teorico, non ha alcuna rilevanza con dati clinici, nel senso che l'ambito a cui si riferisce è molto distante dalla neurologia o dalle neuroscienze cliniche, ed è molto più invece legato a degli esperimenti di ricerca di base di elettrofisiologia cellulare, quindi la neurobiologia dei singoli neuroni. Quindi è molto, seppure indirettamente, fra 20 anni i contributi di questo articolo potranno aggiungere qualcosa alla comprensione di stati patologici o di condizioni che pazienti neurologici dimostrano oggi, in particolare le malattie ai canali ionici sono una serie fondamentale e determinante di malattie neurologiche. Questo contributo è però legato ed è focalizzato soltanto a un contesto di base, è legato a livello cellulare. Michele, che distanza c'è, che rapporto c'è fra i risultati che vi aspettavate di ottenere e i risultati che invece avete ottenuto? diciamo abbastanza a nostro favore, ma non ci aspettavamo di avere un accordo simile, proprio perché la letteratura degli ultimi 14 anni ha utilizzato il metodo precedente, che ho definito in qualche modo impreciso o fallato, senza farsi troppe domande, e quindi avevamo esattamente la sensazione che la nostra derivazione, il nostro metodo e il nostro studio più dettagliato e più, o perlomeno più ragionato, potesse sicuramente dar luogo agli stessi risultati. Invece, con nostra sorpresa, l'accordo fra il nostro metodo semplificato e il metodo preciso, esatto, quello che appunto viene chiamato metodo microscopico esatto nel manoscritto, è ovviamente molto soddisfacente. È ovvio che ci siano delle differenze. Il nostro messaggio conclusivo di questo articolo è che riteniamo che da un punto di vista riduzionistico, a comprendere quello che è il funzionamento di un singolo neurone, queste differenze siano trascurabili, e abbiamo analizzato una corrispondenza su tutta una serie di osservabili, quali quello a cui hai fatto riferimento tu prima e quello a cui posso brevemente fare riferimento adesso, che è la risposta in termini di emissione di impulsi nervosi e la variabilità di questa risposta. Questo tipo di variabilità è fondamentale per comprendere, per esempio, la variabilità di una risposta di una persona a un qualche stimolo. Se una persona mi chiede di reagire, di premere un pulsante ogni volta che vedo una luce verde accendersi, i miei tempi di risposta non saranno esattamente sempre gli stessi. Perché il mio cervello, la luce si accende sempre allo stesso modo e la mia mano schiaccia il pulsante sempre allo stesso momento. Da dove viene questa forma di variabilità nelle risposte comportamentali? Probabilmente risiede in un substrato cellulare, sensoriale e cellulare, di cui questa variabilità a livello dell'emissione dei singoli potenziali d'azione o impulsi nervosi è una componente importante. Il nostro metodo permette di studiare e di riprodurre in silico o in una simulazione questa variabilità. Ti faccio a questo punto l'ultima domanda prima di ascoltarci l'ultimo pezzo musicale. A quali applicazioni pratiche pensi che questa ricerca potrà portare? Fondamentalmente ritengo che, e riteniamo insieme ai miei coautori, che potrà avere un impatto drammatico nella comprensione dell'influenza di questo rumore di canale sulle reti di neuroni, che sono il livello fondamentalmente successivo a quello delle singole cellule. Per fare un esempio, al Politecnico Federale di Lausanne, questa volta, dove ho lavorato, al Brain Mind Institute, c'è un progetto molto ambizioso, finanziato e in collaborazione con IBM e con una serie molto numerosa di laboratori in giro per il mondo, in cui si vuole simulare un pezzettino di corteccia, di neocorteccia del cervello di un ratto. Ebbene, questa è una delle prime simulazioni al mondo in cui la morfologia, le caratteristiche della forma delle cellule, dei neuroni, viene presa in considerazione. E infatti servono qualcosa come 50.000 processori, o 50.000, quello l'equivalente dei core dei processori attuali, per simulare una rete di 100.000 neuroni. Quindi in qualche modo c'è una corrispondenza, un neurone, un processore. Ebbene, il nostro metodo potrà permettere, ed è l'unico che a nostro avviso potrà permettere di farlo, di introdurre questa variabilità, questa stocasticità, che è naturale, che è qualcosa che si verifica e si misura quotidianamente, per esempio nel mio laboratorio ad Anversa, con degli esperimenti di elettrofisiologia cellulare. Il combinare le caratteristiche morfologiche con la complessità a un realismo tale appunto da imitare la forma di una rete, dei singoli neuroni di una rete di neuroni, potrà essere complementato da questa descrizione non deterministica. Questa è la prima volta. Avete in sostanza alleggerito le operazioni di calcolo, questo è il nodo della ricerca. Precisamente, per fare un esempio, come sapete, in una simulazione al calcolatore il tempo deve essere inevitabilmente discretizzato, è come se un metronomo lo scandisse. Ogni volta che il metronomo batte un colpo, nel nostro caso dobbiamo fare, faccio un esempio, 20 operazioni matematiche, 20 operazioni aritmetiche, contro qualcosa come un miliardo di operazioni matematiche e aritmetiche che sarebbero in realtà necessarie per rappresentare un milione di canali, di singoli canali ionici. Noi non descriviamo i singoli canali ionici e usiamo un approccio compatto e ovviamente per questa ragione, allo stato attuale della tecnologia, l'unico possibile per rappresentare questa complessità. E allora, musica e poi di nuovi studi. Grande Giove. Check me out, take me in, charge me up, make me over again. Maybe we can be more than just friends. Tear me down, build me up, pour me out, then try filling the cup. All we have is never enough. I bleed every day without you. I E allora siamo ancora in collegamento col professor Michele Giuliano, professore presso il gruppo di ricerca di neurobiologia teorica e neuroingegneria al Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Anversa in Belgio, e a questo punto andiamo con la domanda Zainetto. Michele, quale delle tante cose salveresti e metteresti nel tuo zainetto da ricercatore per portarti dietro nelle prossime ricerche? In realtà il paper stesso è funzionale, è una parte di un percorso, di un programma di ricerca più ampio che speriamo di continuare a sviluppare con Daniele Linaro e Marco Storace, in cui proprio il nostro obiettivo era quello di capire quando una rete, un gruppo di neuroni comunica insieme, che cosa cambia, che cosa può rendere diversa la reazione, la risposta a uno stimolo esterno, le proprietà stocastiche non deterministiche dei singoli neuroni. Per approcciare questo problema, molto ambizioso, non c'era altro modo se non quello di sviluppare un metodo accurato, statisticamente preciso e veloce. E quindi fondamentalmente questo articolo abbiamo ritenuto che questo strumento fosse di validità e di utilizzo e di utilità notevole anche per gli altri, e quindi l'abbiamo pubblicato, ma è un piccolissimo tassello verso un percorso molto più ampio che è volto a capire perché quando non un neurone ma un gruppo di neuroni inizia a interagire fra di loro, a livello emergente le proprietà sono in qualche modo molto più interessanti che la somma delle parti, e questo è in qualche modo un primo strumento per approcciare questa complessità. Michele, ti ringrazio per la pazienza. A questo punto l'appuntamento per tutti voi e alla settimana prossima, e l'augurio e il classico di buona scienza a tutti. Michele, grazie. Grazie a voi. Turn it left, turn it right, turn it round, maybe the pieces fit tonight. Ehi, con chi stai parlando? Dici a me.